Nordio è abbastanza ipocrita nell'affrontare questo tema, perché nel momento in cui fa questa equiparazione con l'introduzione dell'omicidio stradale, dimentica la cosa fondamentale. E cioè che quando si mette sotto qualcuno con la macchina, se riconosciuti colpevoli si va in carcere. E invece ci sono migliaia di persone che perdono la vita sul posto di lavoro, ma i colpevoli sono difficili da individuare, e anche in quelle rare circostanze in cui questo avviene se la cavano in modo assolutamente con pene irrisorie. Quindi è un problema di giustizia. Migliaia di persone, sono più di 1000 ogni anno, che perdono la vita, in molti casi per la responsabilità di una mancata osservanza delle regole sulla sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro, i padroni, sanno che possono permettersi questa inosservanza perché sanno di rimanere sempre impuniti e di poter facilmente aggirare regole che sono evanescenti, sono facilmente aggirabili, sono farraginose e se la cavano. Certo. Diverso è invece il problema come si affronta la questione. È chiaro che l'introduzione del reato non è toccasana. L'introduzione del reato ci consente finalmente di stabilire delle responsabilità e di chiamarle a rispondere di questo. Per affrontare la tragedia dei tantissimi infortuni gravi, gravissimi, fino alla morte sul posto di lavoro, bisogna intervenire contro lo sfruttamento, bisogna ridurre la precarietà, bisogna rendere il lavoro meno ricattabile, perché è chiaro che se i lavoratori non possono reclamare il rispetto dei loro diritti, saranno sempre soggetti a qualsiasi condizione stabilisce il padrone, e quindi a lavorare anche in condizioni di estrema insicurezza. E questo significa cambiare tante cose, dalle leggi sugli appalti a ridurre questo tasso di precarietà, impedire che le imprese stabiliscano loro, in base a ragionamenti di pura risparmio, quale contratto applicare a prescindere dal nesso con le attività che effettivamente si svolgono. La ministra Calderoni, alla nascita del governo, quando si insedia come ministra, invita tutte le parti sociali, quindi organizzazioni sindacali e anche le associazioni datoriali, a un tavolo sulla sicurezza sul lavoro, come a voler dire: per il nostro governo e per il mio ministero questo costituisce un tema di assoluta priorità. Peccato che a quel tavolo, dove noi portammo tra le altre ovviamente la proposta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, i datori di lavoro furono gli unici che ne uscirono vincenti, proponendo la reintroduzione dei voucher che puntualmente in alcune categorie questo governo ha tempestivamente reintrodotto. E noi sappiamo che i voucher sono un simbolo di una precarizzazione totale che costituisce il vero fattore che aumenta i rischi per i lavoratori sul posto di lavoro. Per cui lì c'è l'evidente attenzione alla libertà di impresa e al fatto che le imprese debbano sempre sentirsi tranquille di poter agire a prescindere da altri, dai diritti dei lavoratori, dalla salvaguardia almeno della salute del lavoratore. E quindi sì, certamente il termine sicurezza, che sta tanto a cuore agli esponenti di questo governo, quando si traduce in ostacoli, diciamo così, al libero arbitrio delle imprese, e allora diventa una parola che va messa sotto il tappeto, va nascosta e va garantito alle imprese il massimo della libertà. Questo sì, il ministro Nordio, poi ripeto, è ipocrita perché fa finta di non capire che il reato non ci serve tanto per risolvere il problema, ma per assicurarci che le vittime almeno abbiano giustizia, almeno non gli venga riconosciuto che sono stati uccisi e che qualcuno paghi per questi omicidi che si ripetono in grandissimo numero e in cui però nessuno mai viene chiamato a rispondere delle sue responsabilità.